In camera. Just a minute. Yeah. Signorina Jenkins? Yes. E ci sono dei fiori per lei. Ecco. What beautiful flowers. But who are... C'è un biglietto. A card. Oh, yes. Benvenuta a Firenze. Lorenzo. Oh, my God. This is incredibile.